Agli ultimi di agosto, dopo vari convegni, Margherita permise che Anania rivelasse il loro amore al signor Carboni. Dunque posso sperare? Egli esclamò, colpito, quasi avesse fino a quel momento disperato. È proprio vero, sarà vero. Ma sì, ella disse, vezzeggiando, accarezzandogli i capelli con affetto quasi materno. Egli la strinse a sé, chiuse gli occhi, nascose il viso sull'omero di lei, concentrandosi per vedere tutta l'immensità della sua fortuna. Era mai possibile? Margherita sarebbe diventata sua, sua, davvero? Sua nella realtà come lo era sempre stata nel sogno? Ricordò il tempo in cui egli non osava confessare il suo amore neppure a se stesso, ed ora. Quante cose succedono nel mondo, cominciò a pensare. Ma che cosa è il mondo? Che cos'è la realtà? Dove finisce il sogno e dove comincia la realtà? E non può essere tutto sogno. Chi è Margherita? Chi sono io? Siamo vivi? E che cos'è la vita? Che cos'è questa gioia misteriosa che mi solleva tutto? Come la luna solleva le onde. E il mare che cos'è? Sente il mare? È vivo? E la luna che cos'è? Ed è vero tutto questo? Sollevò la testa e sorrise delle sue domande. La luna illuminava il cortile e nella notte diafana il canto tremulo dei grilli faceva pensare ad un popolo di folletti minuscoli, ciascuno dei quali suonasse un violino scordato, accompagnando con quel motivo monotono il mormorio delle foglie umide di rugiada. Tutto era sogno e tutto era realtà. Anania credeva di vedere i folletti suonatori e nello stesso tempo scorgeva distintamente la camicetta rosea, la catenella e gli anellini di Margherita. Le strinse il polso, premé un dito sulla perla di uno dei suoi anelli, le guardò le unghie, distinguendone le macchiette bianche. Sì, tutto, tutto era vero, visibile, tangibile. La realtà ed il sogno non avevano confine. Tutto si poteva vedere, toccare, raggiungere, dal sogno più folle all'oggetto meno visibile. In quel momento pareva ad Anania che, come toccava l'anellino di Margherita, avrebbe potuto, stendendo il braccio, sfiorare la luna o stringere nel pugno il canto dei grilli. Ma poche parole pronunziate da Margherita gli segnarono nuovamente i confini tra il sogno e la realtà. Cosa dirai a mio padre? Ella chiese, sempre un po' canzonandolo. Dimmi dunque che cosa gli dirai, signor padrino, io e sua figlia Margherita, facciamo una cosa. Egli arrossì. Capì che non avrebbe mai avuto il coraggio di presentarsi al padrino per rivelargli il suo amore. Oh, io non potrò mai, confessò subito. Gli scriverò. Oh, questo poi no, disse Margherita facendosi seria, bisogna assolutamente parlargli, egli si piegherà di più, se non puoi tu mandagli qualcuno. Ma chi? Margherita disse timidamente, tua madre. Egli capì che ella alludeva a zia Tatana, ma il suo pensiero corse all'altra e gli parve che anche Margherita ci pensasse. L'ombra lo riavvolse. Ah sì, la realtà ed il sogno erano ben divisi da terribili confini. Un vuoto è uguale a quello che divide la terra dal sole li separava. Tuttavia, egli pensò, se potessi in questo momento parlare, questo è l'attimo, se me lo lascio sfuggire, forse non lo ritroverò mai più, il vuoto si può varcare. Aprì le labbra, sentì il cuore battergli forte, ma non poté parlare e l'attimo passò. Qualche sera dopo, zia Tatana, molto sbalordita ma altrettanto orgogliosa e fiduciosa nell'aiuto del Signore, dopo aver lungamente pregato e fatta la salita, trascinandosi i ginocchioni dalla porta all'altare della chiesa del Rosario, fece la sua ambasciata. Anania rimase a casa, aspettando con ansia il ritorno della vecchia. Per un bel po' stette sdraiato sul letticciuolo, leggendo un libro di cui non ricordava assolutamente il titolo. Ma io sono tranquillo, pensava. Che posso temere? La cosa è più che sicura. E intanto leggeva, senza capire una sillaba, e il suo pensiero seguiva la vecchia. Zia Tatana cammina lentamente, tutta compresa dalla solennità della sua missione. Anche un po' di paura, la buona vecchia colomba, candida e soave. Ma pazienza, con l'aiuto del Signore di Santa Caterina e di Maria Santissima del Rosario, qualche cosa si farà. Per l'occasione ella ha indossato le sue vesti più belle, la tunica orlata dai tre nastrini, verde, bianco e verde, il corsetto di broccato verdolino, la cintura d'argento, il grembiule ricamato, la benda tinta con lo zafferano e non ha dimenticato gli anelli, no, i grandi anelli preistorici ornati di cammei, di pietre gialle, verdi, di corniole incise. Così grave e adorna, simile ad una vecchia Madonna, ella si avanza lentamente, salutando con solenne compostezza le persone che incontra. Cade la sera, l'ora sacra a queste gravi missioni d'amore. Al cader della sera, la paraninfa è sicura di trovare a casa il capo della famiglia, al quale reca il messaggio arcano. Zia Tatana va sempre più grave e lenta, pare che abbia paura di arrivare. E giunta al fatale limite, davanti al portone chiuso, silenzioso e scuro come la porta del destino, esita un momento. Si accomoda gli anelli, il nastro del grembiule, la cintura, cinge il mento col lembo della benda e infine si decide e batte al portone. Parve ad Anania che quel colpo si ripercuotesse sul suo petto. Balzò in piedi, sollevò la candela e si guardò nello specchio. L'ho detto io. Sono pallido, guarda che stupido, ebbene. Non voglio pensarci più. S'affacciò alla finestra. Nel cortile chiuso, illuminato dall'ultimo barlume del giorno, il sambuco immobile disegnava una macchia scura. Silenzio perfetto. Le galline dormivano già ed anche il porchetto dormiva. Le stelle scaturivano, scintille d'oro, fra la cenere azzurrognola del caldo crepuscolo. Al di là del cortile, nella straducola, passava un piccolo mandriano a cavallo, cantando in dialetto. Ino che mi facet die, cantende a Parma dorata. Anania pensò alla sua infanzia, alla vedova Zuanne, che faceva il fraticello sul suo alto convento. E dire che voleva diventare bandito, sarei curioso di vederlo. Lo vedrò, entro questo mese mi recherò certamente a Fondi. D'un colpo il suo pensiero tornò là, dove si decideva il suo destino. La vecchia colomba è nello studio, semplice ordinato del signor Carboni. Ecco, quella è la scrivania dove una sera lo studente ha frugato e, oddio, è mai possibile che gli abbia commesso una così vile azione? Sì, quando si è ragazzi non si è coscienti, tutto è facile, tutto è possibile. Come siamo pazzi da fanciulli. Potremmo anche commettere un delitto con la massima incoscienza. Basta, zia Tatana è là ed anche il signor Carboni è là. Grasso, tranquillo, con la catena d'oro scintillante attraverso il petto. Ma che cosa dunque dice quella vecchietta? Pensò Anania, sorridendo nervosamente. Sarei curioso di vedere come se la cava. Se io potessi essere là, non veduto, se avessi l'anello che rende invisibili, ecco, lo infilerei al dito e via, subito là. Ma se il portone fosse chiuso, come farei? Ebbene, picchierei, diamine. Marietta aprirebbe stizzita contro i ragazzi che picchiano al portone e scappano. Io. Ma come sono pazzo a pensare queste cose puerili. Uff, non voglio pensarci più. Si tolse dalla finestra, prese la candela, scese in cucina, andò a sedersi davanti al focolare acceso, ma ad un tratto ricordò che era d'estate e si mise a ridere. Poi guardò a lungo il gattino rosso che stava davanti al forno immobile e pronto, coi baffi irti. E la coda tesa, aspettando il passaggio di un topo. No, disse Anania, pensando allo strazio del topolino. Per stasera non te lo lascio prendere. Neppure un topolino. Deve stasera soffrire in questa casa. Usciu, usciu! Gridò, balzando in piedi e correndo verso il gattino che vibrò tutto e saltò sopra il forno. Sempre agitato da una inquietudine nervosa, Anania si mise a camminare su e giù per la cucina, su e giù, di tanto in tanto palpava i sacchi ricolmi d'orzo e mormorava: «Mio padre non è poi tanto povero. Egli è un mezzadro del signor Carboni, non il suo servo. No, egli non è povero, ma non potrebbe certo restituire quello che spendo io se non avvenisse ciò che deve avvenire. Ma avverrà poi? Che cosa si combina in questo momento? Ecco. Zia Tatana ha parlato. Che ha detto? Ah, no, no, no, no, non bisogna neppure pensarci. Bisogna piuttosto pensare alla risposta che darà, che dà il benefattore, che dirà egli, l'uomo più leale del mondo, sapendo che il suo protetto ha osato tradire così la sua buona fede. Ecco, egli cammina pensieroso attraverso la stanza. Zia Tatana lo guarda, pallida, oppressa. Dio, Dio, che accade mai? Gemé Anania, stringendosi il capo fra le mani. Gli pareva di soffocare. Uscì nel cortile, si sporse sul muricciuolo di cinta, attese, ascoltò. Niente, niente. Solo dopo un quarto d'ora circa due voci risuonarono dietro il muricciuolo, poi una terza, una quarta. Erano i vicini che si riunivano così ogni notte davanti alla bottega di Maestro Pane per godersi il fresco e chiacchierare. Nostra Signora mia, diceva la voce stridula di Rebecca, ho visto 5 stelle cadere sul cielo. Ah, ciò non è invano, deve succedere qualche disastro. Che tu stii per mettere al mondo l'anticristo? Chiese la voce ironica di un contadino. Dicono che deve nascere da un animale. L'anticristo lo metterà al mondo tua moglie, animale schifoso, rispose adirata la ragazza. Prenditi questa, garofano, disse la bella Agata che mangiava, rideva e parlava nello stesso tempo. Il contadino cominciò a dire parole insolenti. Il vecchio falegname si irritò e gridò: Se non la finisci, ti butto un sasso, faina pelata. Ma il contadino proseguì nella sua bella impresa e allora le donne si allontanarono e andarono a sedersi sotto il muricciuolo del cortile. E zia Sorichedda, una vecchietta che 40 anni prima era stata serva in casa dell'intendente, cominciò a raccontare per la millesima volta la storia della sua padrona. Era una marchesa, suo padre era amico intimo del re di Spagna e le aveva dato in dote 1.000 scudi in oro. Quanto fanno 1.000 scudi? E cosa sono 1.000 scudi? Disse Agata con disprezzo. Margherita Carboni ne ha 4.000. No, osservò Rebecca, altro che 4.000, 40.000. Voi non sapete quel che dite, gridò zia Sorichedda. 1.000 scudi in oro non li possiede neppure Don Franceschino. E andate, siete rimbambita, gridò Agata accalorandosi. Che cosa contano 1.000 scudi se li ha Francisco Carchide in suole di scarpe? La questione diventò seria. Le donne cominciarono a ingiuriarsi. Lo sai tu perché vanti il tuo Francisco Carchide, questa immondezza rifatta? Immondezza siete voi, vecchia peccatrice. Ah, foglia di gelso, chi la fa la pensa. Anania ascoltava e a un tratto, nonostante l'inquietudine che lo agitava, scoppiò a ridere. Oh, gridò Agata, affacciandosi al muricciuolo. Buonanotte alla Vossignoria. Che cosa fai lì al buio, pipistrello? Fa vedere il tuo bel viso. Prego? Egli rispose avvicinandosi e pizzicandola al braccio, mentre Rebecca, che all'udire la risata del giovane s'era accoccolata per terra quasi volendo nascondersi, pizzicava Agata alla gamba. Al diavolo chi vi ha formati? Imprecò la bella ragazza. Questo è un po' troppo, lasciatemi o svelo. Ma i due la pizzicarono più forte. Ai ai, al diavolo, Rebecca, è inutile che tu faccia la gelosa. Ai, zia Tatana, stasera è andata a chiedere? Parlo o no? Ah! Anania si ritrasse, chiedendosi come mai la indiavolata Agata sapeva. Cuoricino mio, un'altra volta rispetta, zia Agata, ella disse sogghignando, mentre Rebecca, che aveva capito, taceva impietrita e zia Sorichedda domandava: Fammi il piacere, Nania Tonzu, dimmi. Chi a Nuoro può avere 1.000 scudi in oro? Anche il contadino s'avvicinò e chiese: Dimmi, Anania, è vero che il Papa ha 77 donne ai suoi comandi? Anania non rispose, forse non intese neppure. Vedeva una figura avanzarsi dal fondo della straducola e si sentiva venir meno. Era lei, la vecchia colomba. Messaggera. Era lei che tornava portando fra le pure labbra come un fiore di vita o di morte la parola fatale. Egli si ritirò e chiuse la porticina che dava sul cortile mentre zia Tatana rientrava dall'altra parte e chiudeva la porta di strada. Ella sospirava ed era ancora un po' pallida e oppressa. S'avvicinò al focolare e i suoi primitivi gioielli, i suoi ricami, la cintura, gli anelli scintillarono al riflesso del fuoco. Anania le corse incontro e la guardò ansioso e siccome ella taceva le domandò con impazienza: Che cosa vi hanno detto? Pazienza, figlio mio del Signore, ora ti dirò. No, dite subito, mi vogliono. Sì, ti vogliono, ti vogliono, annunziò la vecchia aprendo le braccia. Egli sedette, sbalordito, e si prese la testa fra le mani. Zia Tatana lo guardò e scosse la testa, mentre con le mani un po' tremule si slacciava la cintura. Mi vogliono, è mai possibile? Ripeteva fra sé Anania. Davanti al forno Il gattino aspetta ancora il passaggio del topo e deve già sentire qualche rumore perché la sua coda freme e infatti, dopo un momento, Anania sente uno stridio, un piccolo grido di morte. Ma adesso la sua felicità è così completa che egli non ricorda più che nel mondo esiste il dolore. La relazione particolareggiata di zia Tatana gettò un po' d'acqua fredda su quel grande incendio di gioia. La famiglia di Margherita non si opponeva all'amore dei due giovani, ma naturalmente non dava ancora un consentimento pieno, irrevocabile. Il padrino aveva sorriso, aveva battuto le mani e scosso la testa come per dire me l'hanno fatta quei due. Aveva anche detto fanno presto a mettere le ali questi ragazzi, ma poi era diventato serio e pensieroso. Ma infine che avete concluso? Gridò Anania facendosi anch'egli serio e pensieroso. Che bisogna aspettare, Santa Caterina Bella, non hai ancora capito? Ma la padrona disse, bisognerebbe interrogare anche Margherita. Credo proprio che non occorra, rispose il padrino battendo le mani. Io sorrisi. Anche Anania sorrise. Abbiamo dunque concluso. Va via, gatto, gridò zia Tatana tirando il lembo della tunica sul quale il gattino si era comodamente adagiato, leccandosi i baffi con orribile soddisfazione. Abbiamo concluso che bisogna aspettare. Il padrone mi disse che il fanciullo pensi a studiare e a farsi onore. Quando egli avrà un posto onorevole, noi gli daremo la nostra figliuola. Intanto si amino pure e che Dio li benedica. Ecco, tu ora cenerai, spero. Ma infine posso presentarmi in casa loro come fidanzato? Per adesso no, per quest'anno no. Tu corri troppo, galano meu. La gente direbbe che il signor Carboni è rimbambito se permettesse una tal cosa. Bisogna che tu prenda la laurea prima. Ah! Gridò Anania adirandosi. È dunque meglio, stava per dire, è dunque meglio che ci vediamo di notte, di nascosto, per non urtare la falsa suscettibilità della gente. Ma subito pensò che vedersi di notte, di nascosto da soli, era forse meglio che vedersi di giorno e alla presenza dei genitori e si calmò completamente. Peggio per loro, dunque. Per consolarsi, ricominciò le visite la notte stessa. La Fantesca, appena socchiuse il portone, gli augurò la buona fortuna, come se le nozze fossero già celebrate, ed egli le diede la mancia e attese trepidando la sposa. Essa venne, cauta e silenziosa, profumata di reos con un abito chiaro biancheggiante nella notte diafana. Si abbracciarono a lungo, silenziosi, vibrando assieme, ebbri di gioia. Il mondo era loro. Per la prima volta Margherita, ormai sicura di potersi abbandonare senza paure né rimorsi all'amore del bel giovane che impazziva per lei, si mostrò appassionata e ardente, quale Anania non osava sognarla. Ed egli uscì dal convegno barcollando, cieco, fuori di sé. La notte appresso il convegno fu ancora più lungo, più delirante. La terza notte la serva, che vigilava nella cucina, forse stanca di vegliare, fece il segno convenuto in caso di sorpresa e gli innamorati si lasciarono alquanto spaventati. L'indomani Margherita scrisse: Ho paura che ieri notte il babbo si sia accorto di qualche cosa. Badiamo di non comprometterci ora, appunto, che siamo tanto felici. Ebbene, quindi che per qualche giorno non ci vediamo. Abbi pazienza e sii, anzi, coraggioso come lo sono io, che faccio un enorme sacrificio rinunziando per qualche tempo alla immensa felicità di vederti. Mi pare di morire perché ti amo ardentemente, perché mi sembra di non poter più vivere senza i tuoi baci, eccetera, eccetera. Egli rispose. Adorata mia, tu hai ragione, tu sei una santa per bontà e per saviezza, mentre io non sono che un pazzo, pazzo d'amore per te. Non so, non vedo più quel che faccio. Ieri notte potevo compromettere tutto il nostro avvenire e non me ne accorgevo neppure. Perdonami, oh, perdonami, quando sono vicino a te perdo la ragione. Ho la febbre, mi consumo tutto, mi pare che entro di me arda un fuoco distruttore. Rinunzio con spasimo alla suprema felicità di vederti per qualche sera e siccome ho bisogno di moto, di svago, di un po' di lontananza per attutire alquanto questo fuoco che mi divora e mi rende incosciente e malato, penso di fare un'escursione sul Gennargentu. Tu vuoi, non è vero? Rispondimi subito, cara, adorata, mio spasimo e mia gioia. Ti porterò sul cuore. Dalla più alta cima sarda ti manderò un saluto, griderò ai cieli il tuo nome e il mio amore. Oh, come vorrei gridarlo dalla più eccelsa cima del mondo affinché tutta la terra ne restasse attonita. Ti abbraccio, ti porto con me, unita a me per tutta l'eternità. Margherita diede graziosamente il suo permesso. Altra lettera di Anania. Parto domani mattina con la corriera per Mamoiada Fonni. Passerò sotto la tua finestra alle 9. Vorrei vederti stanotte, ma voglio essere prudente. Vieni, vieni con me, Margherita, adorata mia. Non lasciarmi un solo istante. Vieni qui sul mio cuore, ardi del mio fuoco d'amore. Fammi morire di passione. 7. La corriera attraversava le tancas selvagge, gialle di stoppie e di sole ardente, qua e là ombreggiate da macchie di olivastri e di querciuoli. Anania, seduto in serpe, a fianco del vetturale che scuoteva la frusta, entro la vettura si soffocava dal caldo, dimenticava le impressioni febbrili dei giorni scorsi per rivivere in un giorno lontano. Rivedeva il carrozziere dai baffi gialli e dalle guance gonfie, e a misura che la corriera si avvicinava a Mamoiada, la suggestione dei ricordi diventava quasi dolorosa. Nell'arco del mantice si disegnava lo stesso paesaggio che egli aveva intraveduto quel giorno, mentre abbandonava la testolina sulle ginocchia di lei, estendevasi lo stesso cielo di un azzurro chiaro, melanconico. Ecco la cantoniera. Nel paesaggio, a linee forti, ondulato, verde di macchie selvagge, si intravede qua e là qualche filo d'acqua violacea. Sodono fischi di uccelli palustri. Un pastore, bronzeo su uno sfondo luminoso, guarda l'orizzonte. La corriera si fermò un momento davanti alla cantoniera. Seduta sul gradino della porta, una donna in costume tonarese, tutta fasciata nelle ruvide vesti come una mummia egiziana, scardassava un mucchio di lana nera con due pettini di ferro. Poco distante, tre bimbi laceri e sporchi giocavano, o meglio si accapigliavano fra loro. Ad una finestra apparve un viso scarno e giallo di donna ammalata, che guardò la vettura con due grandi occhi verdognoli pieni di stupore. La cantoniera, desolata, pareva l'abitazione della fame, delle malattie e del sudiciume. Anania si sentì stringere il cuore, egli conosceva perfettamente il dramma tristissimo svoltosi 23 anni prima in quel luogo solitario, in quel paesaggio rude e fresco che sarebbe stato così puro senza l'immondo passaggio dell'uomo. La corriera riprese il viaggio. Ecco Mamoiada, emergente tra il verde degli orti e dei noci, col campanile chiaro disegnato sull'azzurro tenero del cielo. Da lontano il quadretto aveva le tinte delicate di un acquerello, ma appena la corriera si inoltrò su per lo stradale polveroso, il profilo del paesetto prese tinte cupe, ancor più forti di quelle del paesaggio. Davanti alle casette nere, costrutte sulla roccia, s'aggruppavano caratteristiche figure di paesani, donne graziose, coi capelli lucenti e attorcigliati intorno alle orecchie, scalze, sedute per terra, cucivano, allattavano, ricamavano. Due carabinieri, uno studente annoiato, un vecchio nobile, che era anche contadino, chiacchieravano davanti alla bottega d'un falegname, intorno alla cui porta stavano appesi molti quadretti sacri dipinti a vivi colori. Dopo mezz'ora di fermata, la corriera ripartì. Ecco le rovine della chiesetta, ecco gli orti, ecco la piantagione di patate dove l'altra volta Olì ed Anania si erano fermati. Egli ricordò la donna che zappava con le sottane cucite fra le gambe e il gatto bianco che si slanciava contro la lucertolina verde guizzante sul muro. Nell'arco del mantice i paesaggi si disegnavano sempre più freschi con sfondi luminosi. La piramide grigiastra di Montegonare, le linee cerule argentee della catena del Gennargentu apparivano come incise sul metallo del cielo, sempre più vicine, sempre più maestose. Ah sì, ora davvero Anania respirava l'aria natia e sentiva tutti gli istinti atavici. Vorrei balzare giù dalla vettura, correre su per le chine, fra l'erba ancora fresca, fra le macchie e le rocce, gridando di gioia selvaggia, imitando il puledro sfuggito al laccio e ritornato alla libertà delle tancas. Sì, egli pensava mentre la corriera rallentava la corsa, su per la strada in salita. Io ero nato per fare il pastore. Sarei stato un poeta, forse un delinquente, forse un bandito fantasioso e feroce. Oh, contemplare le nuvole dall'alto d'un monte, figurarsi d'essere il pastore di una torma di nuvole, vederle errare sul cielo argenteo, incalzarsi, svolgersi, passare, scomparire. Poi pensò: e non sono un pastore di nuvole. Fra le nuvole dei miei pensieri che differenza c'è? Ed io stesso non sono una nuvola? Se fossi costretto a vivere in queste solitudini, mi dissolverei. Diventerei una stessa cosa con l'aria, col vento, con la tristezza del paesaggio. Sono io vivo? Che cosa è, dopo tutto, la vita? Come sempre, egli non seppe rispondere alla sua domanda. La corriera saliva lentamente, sempre più lentamente, con moto dolce, quasi cadenzato. Il cocchiere sonnecchiava e pareva che anche il cavallo camminasse dormendo. Dal sole alto verso lo zenith calava uno splendore eguale e melanconico. Le macchie ritiravano le loro ombre, un silenzio profondo ed una sonnolenza ardente pervadevano l'immenso paesaggio. Ad Anania pareva in realtà di dissolversi, di diventare una stessa cosa con quel panorama sonnolento, con quel cielo luminoso e triste. Ecco, egli aveva sonno e come l'altra volta finì col chiudere gli occhi e addormentarsi infantilmente.